Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Mebius fra pochi istanti vi parlerà di un bel progetto che dovrebbe, attenzione al condizionale, far parte di Expo 2015. Benvenuti e benvenuti alla nostra trasmissione. Adesso sentiamo i titoli e poi incominciamo. Che fine farà il grande progetto degli orti botanici che avrebbero raccolto la flora mondiale? Programmato per Expo 2015, adesso è già a rischio di estinzione. Il voodoo è protagonista a Milano con Mami Vata, la divinità con sembianze di sirena, adorata in molti paesi africani. Come proteggere le statue dalle scosse di terremoto? Una nuova tecnologia è stata applicata ai bronzi di Riace. C'era una volta la diffrazione. Due fisici italiani hanno scoperto come aggirare questo fenomeno naturale alla base della fisica ottica. E qui con me in studio Claudia Sorlini. Buonasera Claudia. Buonasera a lei. Membro del comitato scientifico di Expo 2015, docente e ricercatrice della Facoltà di Agraria di Milano e poi lei è stata fino a poco tempo fa preside di una facoltà, lo dico io perché non potrebbe dirlo lei, ma io lo so e quindi devo dirlo, che è un centro di eccellenza a livello europeo e quindi anche mondiale per quanto riguarda la ricerca in questo campo con grandi risultati in tanti anni. E quindi dalla Facoltà di Agraria è venuto fuori un progetto per Expo 2015. Ricordiamolo che questo Expo ha come tema l'alimentazione, l'agricoltura e la sostenibilità di questa attività che, insomma, è inutile dirlo, è cruciale nella storia dell'umanità da sempre e lo sarà ancora di più in futuro. È un bel progetto, adesso lei ce lo descriverà, che però insomma è un po' a rischio, un po' tante cose di questo Expo 2015 non si riesce a capire come stanno andando e sarebbe veramente grave se questa opportunità che è contenuta appunto nel vostro progetto non fosse colta dalla manifestazione. Ci dice che cos'è, come è fatto questo progetto? Allora, questo progetto è un grande progetto che è funzionale all'obiettivo che ha nutrire il pianeta, energia per la vita, che è il titolo esatto dell'esposizione universale che si dovrà tenere nel 2015. E in questo progetto, in cui tutta la facoltà d'agraria è stata coinvolta, sono previste tre grandi serre della biodiversità mondiale che rappresenterebbero tre grandi biomi, cioè tre grandi aree climatiche importanti del pianeta, cui si aggiungono le altre due fuori serra. Le tre serre dovrebbero contenere, è previsto che contengano, il deserto, la savana e la foresta pluviale, che è di grandissima importanza per l'ecologia di tutto il pianeta. Ecco Sorlini, sì. Quando parliamo di serre di questo genere, ci sono già degli esperimenti di questo genere in altre parti del mondo, sono veramente dei grandi habitat in cui viene riprodotto molto bene. Esatto. Un mondo che certo non è quello lombardo, ma che può arrivare dall'Amazzonia piuttosto che da un deserto. Cioè... Esistono già in alcuni paesi del mondo, in particolare c'è il Kew Garden, che è un nostro riferimento molto importante a Londra. Tuttavia la grande novità che noi proponiamo è quella di fare anche degli ecosistemi fuori serra, che sono il temperato caldo e il temperato freddo. Il temperato freddo è l'ecosistema, è il bioma che si trova nel nord Europa, per fare un esempio, mentre il temperato caldo è quello del Mediterraneo, con la vite, con l'ulivo. Le serre che sono state realizzate nel mondo hanno però, diciamo, un aspetto che è soltanto uno dei tanti aspetti che noi vogliamo rappresentare. Rappresentano un grande ecosistema con le piante naturali che vi crescono. Noi invece in queste serre, in questi altri ecosistemi esterni, vogliamo mettere in evidenza anche in pochissimo spazio qual è stata l'evoluzione di migliaia di anni di storia dell'agricoltura. Quindi laddove c'era dove c'è tuttora la foresta fluviale, come si è evoluta poi l'agricoltura, come si è trasformata la terra, quali tipi di coltivazione, per esempio il riso piuttosto che il frumento o altri cereali vengono coltivati nelle varie zone del pianeta. Quindi è un processo che viene concentrato in pochissimo spazio, ma che ripercorre la storia dell'intera umanità attraverso un'evoluzione dell'agricoltura. E questa è un'assoluta novità che non esiste da nessun'altra parte. Poi, questo, quindi diciamo che questo era un gruppo di iniziative che stiamo sviluppando e che hanno avuto anche riscosso notevole interesse. Una seconda parte, sempre legata al verde, era un'area tematica all'interno della quale il nostro intento, l'intento di tutti i progettisti, dico nostro, ma dico, c'erano dentro tante persone che hanno lavorato, soprattutto c'era la consulta degli architetti coordinata da Stefano Boeri. E in questa area tematica l'idea era quella di creare dei laboratori sia all'aperto, cioè campi sperimentali, sia al chiuso, cioè laboratori di analisi e laboratori soprattutto interattivi dedicati a tutte le scuole di ogni ordine grado, dove gli studenti potrebbero venire non solo ad imparare gli aspetti più importanti dell'agricoltura, ma soprattutto poi vedere quello che succede dopo il raccolto. Cioè fare le analisi chimiche per capire quali sono i valori nutrizionali degli alimenti, come si bilancia gli alimenti, fare le analisi sensoriali, cioè acquisire con l'esperienza concreta il valore della filiera alimentare, dell'agricoltura, il valore degli alimenti. Sempre qua l'intenzione era quella anche di fare, di localizzare un centro per lo sviluppo sostenibile, che pure è in progetto, voglio dire, che è presso la società Expo, e che è un centro che ha il compito di fare da terminale per tantissimi paesi in via di sviluppo, ai quali Milano può dare un supporto per gli loro aspetti di sviluppo agroalimentare. Terzo e ultimo aspetto importante, sempre legato al verde, sono i famosi lotti paese. Voi sapete che ogni paese che decide di iscriversi all'Expo riceve, pagando ovviamente una congrua somma, riceve un lotto di terra sul quale è previsto che costruisca una sua sede, però nel nostro intento c'era che una parte di questo lotto rimanesse scoperta o eventualmente coperta da piccole serre, dove si rappresentasse la coltivazione desiderata dal paese, scelta dal paese, come quella migliore, quella più eccezionale, quella che in qualche modo rappresentasse storicamente, evolutivamente, economicamente o culturalmente il paese stesso. Certo. Accanto a questa coltivazione potevano essere anche sistemate delle macchine di trasformazione, delle tecnologie di trasformazione che possono contribuire in modo determinante al prodotto finale, a dare valore nutrizionale oppure semplicemente anche il gusto al prodotto finale. Credo anche che sia molto importante dire che gran parte di questo progetto che lei ci ha descritto sarebbe poi permanente e quindi un patrimonio che il nostro paese avrebbe costantemente, non solo per i 6 mesi dell'Expo. Proprio così, è un lascito fondamentale che la città di Milano può lasciare a tutta la popolazione, anche italiana e anche straniera, e vorrei anche aggiungere che questo progetto risponde esattamente al tema, tenendo conto del problema che l'umanità ha di 1 miliardo di persone che non ha abbastanza per nutrirsi e di 1 altro miliardo che vive sovrappeso. Avevamo iniziato tutto con dei condizionali perché qui non entriamo dentro più di tanto, però insomma sembra che ci siano problemi nel realizzare questa cosa. Mamivata, chissà se dopo questa storia che sta per raccontarvi Chiara Albicocco vi verrà il desiderio di diventare seguaci di Mamivata, o nel caso scriveteci redazione @mebiusonline.eu. Mamivata, mamivata. Si è appena conclusa qui a Milano la 21ª edizione del Festival del Cinema Africano d'Asia e di America Latina. E in questo momento noi ci troviamo in una delle parti che ospita gli incontri extra cinematografici e in particolare nella mostra Nel nome di Mamivata, Serena del Voodoo. Ecco, qui di fianco a me ci sono le curatrici Alessandra Brivio e Simona Cella. Io direi di iniziare, Alessandra, se sei d'accordo, nel contestualizzare, nel far capire forse agli ascoltatori chi è questa figura così importante che è Mamivata. Allora, Mamivata è un'entità che è presente in tutta l'Africa perché ha diverse caratteristiche. Viene considerata oggi un'icona della modernità da molti, soprattutto chi si occupa di Africa e di antropologia africana. Facendo una ricerca su internet, ad esempio, potremmo trovare Mami Vata in mille dimensioni differenti. Qua è stata analizzata e vista, rappresentata da un punto di vista religioso, perché appunto per capire chi è questa Mami Vata è importante, diciamo, collocarla nei contesti specifici. Il nostro contesto specifico è quello della religione voodoo, quindi di questa religione praticata, ci troviamo quindi nella parte meridionale di Togo, Benin e Ghana. Forse possiamo dire anche due parole sulla mostra, che è stata allestita con la collaborazione degli studenti di scenografia della Nuova Accademia di Belle Arti di Milano e ovviamente promossa dal Centro Studi di Archeologia Africana di Milano. Ecco, Alessandra, ci dicevi il voodoo. Sì, forse è il caso di spendere due parole su che cos'è, per chi non lo sapesse. Allora, il voodoo, al di là della parola che immagino in tutti possa evocare spettri, fattucchiere, bamboline con gli spilloni, in realtà è una religione estremamente complessa praticata appunto nel Togo, Benin e Ghana, essenzialmente nella zona meridionale. Allora, la religione voodoo è una religione politeista o animista, veniva una volta definita, quindi agita da un numero indefinito e indefinibile di divinità, e Mami Vata è una di queste. A sua volta Mami Vata, che viene rappresentata oggi come una sirena o un'incantatrice di serpenti, è parte di una famiglia di divinità che in varia misura sono connesse all'acqua, l'acqua dell'oceano, delle lagune o del fiume. Si ritiene, anzi, e qua appunto ci ricolleghiamo a quest'idea di icona della modernità e della ricchezza, che viva in città bellissime e fantastiche sotto il mare, no? Quindi, come esistono delle città a terra, si immagina che al di là della superficie dell'acqua ci siano città con palazzi, grattacieli, insomma città futuribili, ricchissime, di cui lei è regina. È una buona divinità o una cattiva divinità? Ecco, come tutti i voodoo, un aspetto fondamentale per comprendere questa religione è che non esiste una distinzione tra bene e male, cioè esiste, ma si accetta l'idea che il bene e il male coesistano nella stessa identità. Quindi indubbiamente Mami Vata è buona e cattiva, diciamo, quindi è protettrice, aiuta nel successo soprattutto le donne, ma non solo, la fertilità, nella bellezza, ma allo stesso tempo è molto vendicativa. Quindi può uccidere chi non rispetta le sue regole. E proprio su questa ambivalenza si gioca quello che poi vedremo nel cinema, anche il suo aspetto più negativo e vendicativo. Insomma, se ti avvicini troppo alla spiaggia e accetti come qualsiasi sirena il suo invito, entri nella città, non tornerai mai più. Nelle sale della mostra abbiamo visto tante effigi di Mami Vata, tante collane, tanti oggetti che la ritraggono e che vengono utilizzati appunto per il culto di Mami Vata, ma c'è una cosa, una stanza in particolare dove c'è un altare che però riporta non i soliti oggetti, candele o cose di questo genere che si trovano di solito negli altari, ma degli oggetti piuttosto particolari. Sì, perché uno degli aspetti di Mami Vata, sicuramente non l'unico, è di essere una donna estremamente vanitosa, vorace, seducente, molto pericolosa per gli uomini. E nell'esasperare, nel mettere in mostra questa sua vanità, chiaramente come tutte le donne, e soprattutto le donne che si vedono sulle riviste, in televisione, quindi con un certo sguardo verso l'Occidente, verso l'Europa, il mondo occidentale in genere, ama i profumi, i prodotti di bellezza, quindi all'esterno del suo altare, che diciamo che è la parte più nascosta e più potente, si allestisce un tavolo, viene chiamato in questo modo, che potrebbe essere la toilette di una donna, quindi pieno di prodotti di bellezza, e questi prodotti di bellezza vengono proprio accumulati con una certa abbondanza, e anche da qua nasce un po' l'idea che sia una divinità della modernità, del capitalismo, no? Ama il capitale, ama l'accumulo, ama i soldi, ama la ricchezza abbondante che deve essere mostrata ed esibita. Mami Vata, ecco, in Mami Vatà ovviamente non poteva non essere ritratta anche nella parte cinematografica, nell'iconografia cinematografica, e di questo ci parla Simona Cella. Sì, Mami Vatà è effettivamente un personaggio cinematografico perfetto. Innanzitutto è presente in molti film e in questa mostra noi abbiamo esposto locandine di cinema di due tipi di cinema africano completamente differenti. Da una parte ci sono le locandine dei film cosiddetti di Nollywood. No, il film di Nollywood è un fenomeno che si sviluppa in Ghana e Nigeria a fine degli anni Ottanta e che è molto interessante perché è il primo caso di cinema africano che viene visto e consumato in Africa. Ecco, sappiamo che esiste Hollywood, sappiamo che esiste Bollywood in India e ora anche in Africa Nollywood. Nollywood perché appunto ha un giro di affari abbastanza consistente, però va detto che appunto si distingue nettamente dal cinema africano d'autore, nel senso che sono film girati tutti in video con bassissima qualità sia tecnica che di contenuti. E in questa tipologia di film Mami Vatà è molto presente, è un personaggio tendenzialmente negativo, spesso questi film sono come commissionati dalle nuove chiese evangeliche che cercano di demonizzare le religioni tradizionali africane e spesso anche il ruolo della donna. Per cui nelle locandine che noi abbiamo esposto, che sono locandine, in realtà sono dipinte a mano, con uno stile abbastanza horror, e su teli di stoffa che sono i teli utilizzati dai sacchi che contengono gli aiuti alimentari. Quindi una connotazione piuttosto negativa. Invece c'è tutto un altro filone di cinema tradizionale che invece la ritrae come una figura non positivissima, però insomma diciamo che ha delle connotazioni molto più positive. Sì, è effettivamente molto interessante vedere la differenza che c'è nella rappresentazione di Mami Vatà tra il film, diciamo, Hollywood e il cinema d'autore, perché nel cinema d'autore innanzitutto non esiste, almeno i film che abbiamo analizzato noi, la rappresentazione della sirena e della magliatrice di serpenti, non si ritrova. Quindi ci sono varie raffigurazioni, Mami Vatà come una bellissima donna o come rappresentazione di un serpente o come semplicemente acqua, ma tendenzialmente non è identificata con la modernità o con il consumismo, ma bensì come una paladina della cultura tradizionale africana. Insomma, Alessandra, da questa mostra e da quello che mi avete raccontato mi sembra che Mami Vatà abbia appunto una figura estremamente variegata, sia rappresentata in maniera sublime dalle persone che la venerano, ma dalle persone invece che non sono sue adepte, viene addirittura vista come una prostituta. Sì, può essere vista come una prostituta o comunque come simbolo della donna troppo emancipata, e questo sicuramente era presente nelle pitture congolesi popolari dagli anni 60 in poi, quindi la donna che si sottrae alle regole tradizionali della famiglia, chiaramente del rapporto di coppia. E anche oggi, soprattutto appunto come diceva Simona, dalle chiese pentecostali o indipendenti, no? Come la donna che non rispetta le regole, quindi la donna sì, in qualche modo emancipata, la donna che non ha un uomo solo, la donna che in qualche modo si libera, no? E quindi in questo caso, e soprattutto da chi cerca di demonizzare sia la donna che le religioni tradizionali come una prostituta, e sì, una prostituta molto pericolosa e spesso anche accusata di fare il peggio che una donna può fare, no? Quindi avere rapporti lesbici, che sono la negazione della procreazione, quindi la negazione della continuità lignatica in Africa. Ecco, c'è una forte connotazione sessuale, no? Mi dicevi che anche le sacerdotesse, cioè le adepte di Mami Vatà, hanno appunto dei riti per accoglierla, piuttosto forti dal punto di vista sessuale. Sì, molte sacerdotesse raccontano, mi raccontavano che appunto ci sono dei giorni in cui loro devono lasciare il loro letto libero, quindi non possono accogliere un marito o un compagno perché la divinità va a trovarle. Questo vale anche per gli adepti uomini, no? Questa cosa, che spesso viene da loro vissuta come un sacrificio, in realtà in molti casi andrebbe interpretata da un altro punto di vista, è anche uno strumento attraverso cui queste donne si liberano da mariti ingombranti, da i vincoli comunque di una poligamia che non sempre è accettata con facilità. Quindi queste donne riescono, cambiano casa, lasciano il marito senza che ciò diventi realmente uno stigma, perché la religione è la loro divinità che glielo impone, e acquisiscono indubbiamente una certa libertà d'azione nella loro vita quotidiana. È vero che parleremo di statue e terremoti, però prima che cosa c'è? Il quiz. È inevitabile. La domanda di oggi è la seguente. Marie Curie e suo marito Pierre Curie, due nomi di grande importanza nella storia della scienza, soprattutto quello di Marie Curie. Ecco, allora, le loro ricerche, quelle ricerche dei due coniugi di origine polacca ma operative in Francia, si devono i primi studi sulla radioattività. Quando si parla di Marie Curie si ricorda un fatto singolare, poco noto però. Quale? La prima risposta che potete scegliere: in gioventù in Polonia Marie Curie partecipò a una serie di puntate di una trasmissione della radio polacca il cui titolo era Radio Aktinwicz, i polacchi mi perdonino, che vuol dire però radio attiva. Pensate un po' che coincidenza, ci scriverete in questo caso radio. Seconda possibilità: quando la padrona della casa in cui Marie viveva venne a sapere che lei lavorava con materiale radioattivo, le mandò immediatamente lo sfratto, e ci scriverete casa. Infine, i taccuini con tutti gli appunti dei suoi studi sulla radioattività diventarono anch'essi radioattivi, e anche oggi, che sono conservati in un museo, è possibile consultarli solo dopo aver indossato tute protettive, e ci scriverete taccuini. Ci scriverete con il solito SMS 349-238-6666. Il libro di questa settimana è La strana storia della luce e del colore di Rodolfo Guzzi, edito da Springer Verlag. In collaborazione con IBS.it. Reduce dalle ritualità voodoo è qui con me, sì. Chiara Albicocco, sì, leggermente trasformata dalla mostra di Mami Vatà a una cosa altrettanto importante per il nostro patrimonio culturale questa volta. Va bene, allora, se c'è un terremoto, se la terra incomincia a tremare, tu che cosa fai? Ah, io mi metto su un piedistallo di marmo, marmo di Carrara però, eh. Questo dopo, ma adesso lascia perdere il piedistallo, tu cosa fai? E cerco di andare all'aperto, non so, di mettermi al riparo. Va bene, ma la terra trema, tu sei in piedi, se sei in piedi, cosa fai? Ti butti per terra, in ginocchio? Sì, cerco di proteggermi in qualche modo. Cioè, perché in piedi è molto più difficile. Certo. Ma se tu fossi una statua? A quel punto non mi potrei inginocchiare. Oh, infatti il Davide Michelangelo in caso di terremoto cosa fa? Rimane rigido come una statua, mi verrebbe da dire. Ed è qui il problema centrale di cui vogliamo parlare oggi. Sì, è il problema che si sono posti coloro che dovevano restaurare i bronzi di Riace, che vabbè, non hanno bisogno di presentazioni, e appunto in questa fase di restauro l'ENEA, che è l'Agenzia Nazionale per l'Energia che opera in Italia, si occupa anche di questo tipo di restauri per la salvaguardia del nostro patrimonio, e appunto hanno messo in piedi un progetto importante per produrre delle basi antisismiche, appunto per proteggere questo tipo di statue. E qui con noi questa sera c'è l'ingegnere che ha progettato tutto questo e che è responsabile del laboratorio qualificazione materiali e componenti appunto dell'ENEA, ed è Gerardo De Canio. Buonasera De Canio. Buonasera. Buonasera. Allora, abbiamo introdotto esattamente, e cioè il fatto che il vostro lavoro va essenzialmente su quelle statue che sono lì in piedi, quindi sono su una base estremamente precaria in caso di sisma. Sì, il nostro lavoro è specifico per i bronzi di Riace, ma si applica a tutte quelle statue che hanno un prevalente sviluppo verticale e che sono vulnerabili alle caviglie. Certo. I bronzi di Riace sono fra questi, ma anche altre statue, appunto voi l'avete detto prima, il Davide di Michelangelo. Il progetto di queste nuove basi antisismiche per i bronzi nasce però da una convenzione tra la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria, la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria e l'ENEA. Certo, ha fatto bene a specificarlo. Ecco, allora, che cosa avete messo a punto a livello ingegneristico proprio? Siete stati bravi, ci avete anche fornito un video che noi metteremo sul nostro sito www.moebiusonline.eu, dove appunto si vede bene che cosa succede. Ci sono due blocchi di marmo in cui vengono interposte delle sferette piatte di marmo, ma ci spieghi bene che cosa succede? Beh, succede, l'idea, l'obiettivo principale era quello di rendere minimo l'effetto dei terremoti sulle statue, anzi di filtrare il terremoto, di fare in modo che il terremoto non raggiungesse la statua. Per fare questo abbiamo disaccoppiato i basamenti di marmo con un progetto che sfrutta, diciamo, la parte architettonica dandole una funzione strutturale, come dire. Quindi un approccio un po' diverso rispetto al tradizionale. Noi in genere per filtrare il terremoto si usano dei materiali deformabili come la gomma, la gomma vulcanizzata o altri. Quando lei usa il termine filtrare intende dire ammortizzare tutte le vibrazioni. Le onde. Impedire che il terremoto raggiunga la statua. Mm-hmm. Quindi è proprio una specie di filtro. Sì, attutire proprio. Che impedisce che le vibrazioni, specialmente quelle più dannose per la statua, la raggiungano. Mm-hmm. Quindi facciamo in modo che il terremoto venga assorbito, venga preso solo dal blocco inferiore di marmo, mentre il blocco superiore, grazie alla presenza di queste sfere che lei ha detto, scorre e quindi fa in modo che le vibrazioni non raggiungano la statua. Sì, è una specie di sandwich di marmo e al posto del salame voi avete messo delle sferette. Sì. Delle sfere, sì, sono sfere di marmo anche queste. Quindi se c'è una scossa tutto si mette in movimento, ma quel movimento lì molto lentamente. Molto lentamente. Il blocco superiore si muove molto lentamente, anzi il blocco superiore è fermo in realtà, perché quello che si muove è il terreno che sta sotto. E nel filmato lo si vede molto bene, sì. Ma che tipo di scosse riesce, diciamo, ad attutire? Voglio dire, abbiamo visto purtroppo nell'ultimo periodo che ci sono scosse di grande intensità. Ecco, voi avete previsto questo tipo di scosse o un terremoto medio, diciamo, che non fa tanti danni? No, noi abbiamo dovuto prevedere un terremoto di grande intensità, perché Reggio Calabria è una zona ad alta intensità, ad alto rischio sismico dal punto di vista dell'esposizione al terremoto. E quindi un terremoto il massimo possibile ipotizzabile per Reggio Calabria, amplificato dal fatto che le statue sono al primo piano, tenuto conto quindi del fatto che l'edificio amplifica il terremoto, perché più si va in alto e più il terremoto il moto del se ne percepiscono gli effetti, le vibrazioni. Quindi, considerando anche che l'edificio amplifica il terremoto e considerando anche come aggiunta il fatto che l'edificio può anche danneggiarsi durante il terremoto introducendo degli effetti che possono essere dannosi per i sistemi di isolamento sismico, ma non per questi di marmo, che sono proprio progettati apposta per fare in modo che anche nel caso l'edificio fosse danneggiato, le statue non devono subire alcun danno, come se fossero vite umane, insomma. Questo tipo di sistema può essere utilizzato, come dicevamo all'inizio, anche su altri, appunto, manufatti, altre statue di questo tipo, cioè che abbiano una postura verticale, diciamo. Una postura verticale che poggiano solo sulla pianta dei piedi. Certo. Spesso le statue poggiano sul mantello, c'è il mantello che arriva fino a terra, che ha la funzione anche di sostegno della statua. Sì. Però molte statue, specialmente di grandi dimensioni, poi poggiano solo sui piedi e le caviglie sono un punto delicato. C'è anche da aggiungere, Di Canio, che alcune statue, per esempio quelle più antiche, quelle romane, greche che abbiamo in molti nostri musei, sono anche ricomposte, cioè sono un assemblaggio di pezzi, perché la statua non è stata trovata intera, sono quindi state ricostruite. Ancora più fragili. Sono state ricostruite, ma anche le statue in bronzo, gli stessi bronzi di Riace, nella loro realizzazione, in alcune parti sono state saldate dagli antichi greci, no? In vari pezzi, quindi hanno delle giunture, e tra l'altro il fatto che sono stati in fondo al mare per secoli e ha comportato un degrado del bronzo, un deterioramento. De Canio, questo tipo di basi antisismiche sono particolarmente costose o costano di più di quelle tradizionali? No, anzi costano anche di meno, perché sono lavori che un bravo marmista, un bravo, deve essere bravo, insomma, è chiaro, deve avere un bravo artigiano marmista con delle buone macchine a controllo numerico che devono lavorare bene le superfici, può farlo. Ok, quindi potrebbero essere applicate, insomma, anche in altri contesti, in altre città, in altre regioni. Sì, adesso siamo con l'opera del Duomo di Orvieto. L'Enea ha stipulato una convenzione per la protezione delle statue, delle 12 statue dei 12 apostoli che prima erano presenti nel Duomo di Orvieto, poi sono state rimosse e portate in un altro museo. Per queste 12 statue noi abbiamo previsto l'uso di questi dispositivi di marmo. Il segno è diverso perché le statue sono diverse, è chiaro che per ogni statua va dimensionato i basamenti, chiaro, sì, dei sì, calcoli sì, precisi, però insomma. Va bene, allora buon lavoro e grazie per le buone notizie finalmente. Grazie a voi per il fatto che fate un'opera di diffusione della cultura della sicurezza sismica che è molto importante. Va bene, grazie, grazie, arrivederci, buon lavoro. Arrivederci. Siamo alla risposta del nostro quiz che, vi ricordo, era il seguente in pratica, cioè quale fatto singolare appartiene alla storia di Marie Curie. Va bene, allora, che lei partecipasse a delle trasmissioni della radio polacca alla fine del 1800, un po' difficile perché non c'era la radio. Non sappiamo nulla della padrona di casa, se la sfrattò per via delle sue ricerche sulla radioattività, molto improbabile. Invece è assolutamente vero che i suoi taccuini sono ancora oggi radioattivi. E Marie Curie, come lei e altri scienziati che per primi studiarono la radioattività, non avevano assolutamente chiaro il pericolo insito in questo fenomeno naturale. Marie si spense nel 1934 a causa di una leucemia che è praticamente certo la colpì a causa della sua inconsapevole disinvoltura nel maneggiare sostanze come il radio e il torio. Ogni tanto a Mebius affrontiamo degli argomenti che non sono proprio facili di per sé e sono magari anche un po' difficili da spiegare attraverso uno strumento, un medium come la radio. Però ci tentiamo, ci proviamo, perché quando lo facciamo parliamo di cose piuttosto importanti. Qui parliamo di una ricerca nuova che esce dalle nostre università, che ha avuto una risonanza significativa a livello internazionale, e le due persone che hanno portato avanti questo studio sono qui con me questa sera. Sono Eugenio Del Re, buonasera Del Re. Buonasera. Del Dipartimento di Energia Elettronica e dell'Informazione dell'Università dell'Aquila, e anche Claudio Conti, buonasera Conti. Buonasera. Del Dipartimento di Fisica dell'Università La Sapienza di Roma. E allora incomincerò con lei, Del Re. Quando si ha a che fare con cose difficili, a volte una buona strategia è quella di partire dal basso per poi arrivare all'alto, cioè partiamo da che cosa succede, poi vediamo di avere un inquadramento più teorico. Allora mi pare che lei ci suggerisca, e quindi suggerisca a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, di immaginarsi con gli occhi dentro un binocolare di un microscopio che stiamo guardando, beh, che cosa? Qualunque cosa che abbia bisogno di essere molto ingrandita, come dei piccoli organismi viventi, per esempio. Cominciamo da lì? Esatto. Immaginiamo di guardare, per esempio, dei paramesci o qualsiasi altro oggetto su scale molto piccole, millimetriche, submillimetriche. A un certo punto cominciamo a ingrandire l'immagine, perché vogliamo vedere le strutture interne di questi organismi, vogliamo addirittura vedere le singole cellule. E scopriamo che, ingrandendo, alla fine non riusciamo più a vedere nulla, viene tutto sfocato. E il motivo è, diciamo, intrinseco alla natura della luce. La luce, essendo ondulatoria, quando viene emessa dagli oggetti, per riflessione o per emissione, fluorescenza per esempio, si allarga come un'onda dentro una pozzanghera, dentro un lago, si allarga e arriva ai nostri occhi, ma il nostro occhio, l'oculare del microscopio, prende solo una piccola porzione di questa onda emessa, e quindi quando andiamo a ricostruire da questa piccola porzione l'immagine sulla nostra retina, non ci viene fuori l'immagine di quello che la emetteva, ma solo una brutta copia con molta meno definizione. E questo fenomeno, che poi è la diffrazione, è il fenomeno che essenzialmente limita tutto l'imaging e la microscopia moderna ottica. Perché non dobbiamo pensare di essere oggetto di una propagazione come un cilindro, no? Che dall'origine arriva al nostro occhio, ma in realtà questa informazione visiva si allarga, è un cono, no? Sì, questo si può ricordare se qualcuno ha avuto l'esperienza di fare un esperimento abbastanza, diciamo, semplice con la luce, cioè di vedere l'immagine di una lampadina o del sole o di qualsiasi altro oggetto attraverso un forellino. Scopre che finché il forellino è sufficientemente grande, qualche millimetro, un centimetro, allora l'immagine è bella nitida, quella che si vede su uno schermo. E questo significa che la luce si sta propagando come un tubo. Sì. Invece, quando questo forellino diventa sempre più piccolo, per esempio si può osservare facendo con un ago un buco in un pezzo di carta, si comincia a vedere che l'immagine si comincia ad allargare, diventa sempre più sfocata. Ecco, questo succede quando gli oggetti sono grandi dell'ordine dei milionesimi di metro, cioè dell'ordine della lunghezza d'onda della luce stessa. Esatto, in questo caso le onde si propagano proprio come delle perturbazioni sull'acqua, cioè uno butta un sasso nell'acqua e vede questa onda che si propaga e chiaramente si allarga, cioè perde la sua definizione man mano che si propaga, e questo ci limita ciò che possiamo osservare, cioè gli oggetti più piccoli. Per esempio non potremmo mai osservare veramente la struttura di una cellula interna al nucleo, la parte interna del nucleo con la luce, non con le tecnologie attuali. E qui ci stiamo avvicinando allora alla vostra ricerca, che tra l'altro è uscita su che cosa? Nature qualcosa? Una delle riviste di Nature? Sì, Nature Photonics è una rivista specializzata nella parte di ottica, di elettronica, di telecomunicazioni. È la parte dove vengono reindirizzati gli studi tipici, per esempio, della microscopia. Alla base della vostra ricerca c'è l'individuazione di materiali che possono essere come degli strumenti di correzione di questo, che a questo punto diventa un difetto, no? La diffrazione. Vogliamo eliminarlo. Claudio Conti. Sì, esatto. Il punto è che era stato previsto teoricamente un po' di anni fa che alcuni materiali erano tali per cui le leggi della diffrazione vengono completamente modificate. Per cui se noi pensiamo al fenomeno della diffrazione di un fascio laser nell'acqua, sappiamo che se mandiamo un raggio di luce nell'acqua questo viene deviato, e questa è la legge che tutti conosciamo. Diversamente, in particolari materiali che hanno una struttura a livello nanometrico opportunamente progettata, questo fenomeno può essere completamente compensato da particolari meccanismi che avvengono all'interno del materiale. Ora, questo effetto non era mai stato visto sperimentalmente. E quello che noi abbiamo fatto, abbiamo scoperto che specifici cristalli opportunamente progettati, fabbricati, se raffreddati al di sotto di una temperatura, al di sotto di 20 gradi, consentono completamente di cancellare la diffrazione. Questo consente di avere nuove lenti, nuovi tipi di occhiali, per esempio, e tutta una serie di nuovi dispositivi, come nuovi microscopi, in cui la deformazione dell'immagine in propagazione non avviene. In altre parole, in questi cristalli non valgono le leggi solite della natura. E questo è uno di quei classici casi molto strani e suggestivi della scienza, dove da una parte abbiamo le leggi della natura, che però diventano le cosiddette leggi della natura, perché poi siamo in grado, aggiustando dei materiali, assemblando pezzi di natura, perché di fatto avviene questo, in un modo un po' diverso, e scopriamo un'altra natura, un altro mondo che è altrettanto reale. Quindi quello che viene fuori è che ci sono tante nature possibili che una ricerca, una tecnologia riesce a mettere in campo. Il risultato di questa cosa, del re, è che praticamente possiamo pensare di andare a vedere un mondo che prima proprio non era raggiungibile con, per esempio, un'osservazione tipo ottico. Sì, in effetti questo è, diciamo, la prospettiva abbastanza pionieristica della ricerca, nel senso che finché parliamo di leggi di diffrazione comuni, basterebbe una lente o una fibra ottica per poter, o un'onda non lineare per poter accedere a delle informazioni senza distorsione diffrattiva. Invece questa, diciamo, le leggi che regolano i fenomeni dentro questo cristallo sembrano suggerire uno scenario leggermente diverso, in cui proprio la diffrazione scompare, e scompare anche con i suoi limiti ultimi. Esiste una dimensione del forellino sulla carta talmente piccola, lambda mezzi, la lunghezza d'onda a metà, talmente piccola che la luce proprio non si propaga oltre. Ecco, anche questa legge, suggeriscono questi nuovi modelli, queste nuove leggi che regolano la luce dentro questi materiali, anche questo limite ultimo sembra essere ormai sfocato e quindi superabile. Vi chiedo un'ultima cosa, la chiedo a lei Claudio Conti. Ormai si sta avvicinando un'epoca nella quale l'energia luminosa, la propagazione luminosa sarà fortemente utilizzata anche proprio per trasmettere comunicazione al posto degli altri, gli altri strumenti. Insomma, l'elettricità va in pensione e useremo segnali luminosi. Può avere un riflesso anche in questa direzione la vostra ricerca, visto che comunque abbiamo a disposizione definizioni maggiori, oppure no? Beh, assolutamente sì, in realtà questa è l'origine della nostra ricerca. Cioè, noi abbiamo cominciato questi esperimenti, in particolare il professor Derrele ha cominciato all'Aquila, per fare dei nuovi dispositivi per telecomunicazioni su fibra ottica vengono oggi utilizzate, come dice lei, al posto dei circuiti e dei cavi elettronici, e poi invece abbiamo scoperto che potevano avere degli effetti, che questo stesso cristallo che era pensato per un'applicazione per le telecomunicazioni ottiche invece ha degli effetti che sono utili anche per la microscopia e per l'imaging, come dicevamo prima. Quindi... Va bene, Derrele Conti, intanto complimenti per questo risultato che è certamente di rilievo internazionale. Poi vabbè, insomma, abbiamo detto che la diffrazione della luce non c'è più, un po' esagerando, e auguri per la vostra ricerca e buon lavoro. Grazie. Finisce qui Möbius. Dopo riti voodoo e statue che possono stare in piedi anche se arrivano i terremoti. Buona settimana a tutti e a tutte, noi ci sentiamo fra 7 giorni.